1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Allora, alle 7:18 minuti, eccoci qua, cari italiani, agghiaggiante. Oggi mi sono svegliato così. Ma che è successo ad Antonio Conte? Mamma mia, ragazzi, ma che ha combinato? Si è dimesso dalla Juve. Vabbè, e arriva Massimiliano Allegri molto probabilmente. Dai, dai, lo schema Allegri che ritorna prepotentemente alla ribalta, forse in salsa bianconera. Dai, chissà che ne pensa il mio amico Marione Adinolfi, Juventino doc di Massimiliano Allegri. Sarà molto probabilmente lui l'allenatore nuovo della Juve, Forse già oggi lo presentano. Comunque, non so se vi ho rallegrato la giornata o ve l'ho intristita, cari amici tifosi della Juventus, ma qua alle 7:19 minuti noi parleremo d'altro, ovviamente. Di che parleremo? Parleremo della riforma del Senato, avremo ospite Augusto Minzolini, uno dei dissidenti di Forza Italia, che Berlusconi ha detto basta, smettetela o vi mando via. Pare una riunione molto tesa ieri in Forza Italia. Parleremo dei costi della TAV, o meglio dei costi della sicurezza della TAV. 10 milioni di euro solo per garantire la sicurezza dei lavori, esercito, forze dell'ordine. Avremo ospite il direttore generale di LTF, la società che la gestisce e la costruisce. E poi avremo ospite Massimo De Manzoni di Libero, Livio Pepino, ex magistrato contro la TAV. E parleremo poi alle 9 della povertà. Ieri l'Istat ha detto gli italiani sempre più poveri. Parleremo anche di questo. Insomma, tanti temi, ora i giornali. Mercoledì 16 luglio, i titoli tutti quasi declinati sull'Europa. Europa, priorità agli investimenti. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, nel giorno in cui Juncker è stato nominato commissario europeo, presidente della Commissione europea per la verità. Sfida europea su Mogherini invece per il Corriere della Sera. Sapete che si sceglie l'altro rappresentante per la politica estera. Anche Repubblica su questo, ma fa un passo avanti. Renzi all'Europa. Sì alla Mogherini o tocca a D'Alema. Questa è la novità per Repubblica. Stampa Europa, un piano per la crescita. Avvenire l'impegno di Juncker. Renzi, Unione Europea, sfida su Mogherini, questo è il titolo del Messaggero, insomma non titoli molto eccitanti, come vedete come notizia più importante del giorno per il Fatto Quotidiano è la politica Verdini, lo scandalo di Renzi, Verdini indagato che va sempre a Palazzo Chigi, scrive il Fatto, mentre Libero mette abusi edilizi in Senato, cercheremo di capire di che si tratta. E Berlusconi schiera Forza Italia, così il giornale, mentre l'Unità apre sull'Europa, buona la prima. Queste le principali notizie, ma come detto, torniamo su una questione dei costi della Camera e Senato, perché il Messaggero scrive una pagina su questo e attenzione, prima di leggerla o prima di ascoltarmi, come sempre, mani ben strette sul volante salde se state guidando e tazzine dei caffè, i cappuccini bollenti, spremute tutte, appoggiate tutto per un attimo, fermatevi, sospendete. Ecco, ora vi posso raccontare ciò che il Messaggero racconta, pagina 6, con Diodato Pirone. Sapete che c'è una battaglia per imporre anche alla Camera e al Senato il tetto di 240.000 euro per i dipendenti pubblici. Sono circa 130 dipendenti, scrive il Messaggero, che al Senato e alla Camera guadagnano oltre 240.000 euro. Ebbene, lunedì sarà finalmente presentato un piano che prevede i tagli per arrivare a un tetto di 240.000 euro. Bene, direte voi, e cosa c'è da tenere le mani strette sul volante? C'è da tenerle perché, come scrive il Messaggero, siamo in grado di anticipare le presidenze. Dunque, Boldrini e Grasso sembrano orientate a far scattare un contro la rovescia molto, molto lungo, probabilmente di 3-4 anni. Con calma, tale da portare gli stipendi al tetto di 240.000 entro il 2018. Con calma, c'è tempo, se lo facciamo, perché sapete che hanno la famosa autodichia, cioè decidono per se stessi, hanno una autonomia legislativa rispetto a quello che succede fuori dalla Camera del Senato, entro il 2018 imporremo questi tagli graduali. A voi succedono le cose, cari sfigati nottetempo, magari sfigati esodati, che vi siete ritrovati esodati per una riforma fatta dall'oggi al domani, ma insomma qui con calma fino al 2018 ci arriveremo, va bene. Mamma mia, oggi ho iniziato col populismo, poi mi cacciano, va bene. Allora, arriviamo al titolo d'apertura del Senato, proprio su questo: abusi edilizi in Senato. Che significa? Salvatore Dama racconta in prima pagina e poi continua a pagina 2: una sentenza ordina di smontare l'ascensore di Palazzo Giustiniani. Palazzo Giustiniani è la sede di molti uffici dei senatori, ospita residenze e uffici dei senatori. I vicini di casa, i vicini di Palazzo Giustiniani, hanno fatto una causa per un mega ascensore che passa a 23 centimetri dalle finestre loro, quindi le finestre dei vicini. Hanno fatto causa, hanno vinto la causa. Il Senato dovrebbe smontare questo ascensore considerato abusivo, ma l'Agenzia del Demanio ignora la sentenza. Questo scrive in sintesi Salvatore Dama in prima pagina e pagina 2 di Libero. Ma come? Lo Stato con l'Agenzia del Demanio nel Tempio delle Leggi, Palazzo Giustiniani, uno degli uffici del Senato, non rispetta le leggi dello Stato e le sentenze dello Stato? Ma vai, vai a capire. Comunque, ora rimettete pure le mani sul volante, potete anche ributtarmi nel traffico o continuare a bere il vostro caffè. Ieri abbiamo letto l'intervista, la prima volta che parla Luigi Preiti, vale a dire colui che ha sparato fuori a Palazzo Chigi ferendo gravemente soprattutto il brigadiere Gian Grande. Oggi Repubblica con Jenner Meletti va a raccogliere le reazioni dei familiari. La stessa figlia di Gian Grande dice: assurdo che Preiti cerchi scuse e soprattutto no al perdono. La figlia Martina dice: sono offesa dal tono, come può parlare così dell'Italia? Faccio fare i lavori per togliere le barriere architettoniche nella casa di mio padre quando mi chiamano e mi dicono leggi Repubblica e penso chissà che ha scritto, io non ho parlato con questo giornale, poi vado in edicola e ci resto di sasso, un'intervista all'uomo che ha reso invalido papà, le parole che dice, quel tono, sono sbalordita, sono indignata. E poi ho letto a mio padre in uno stralcio in intervista, anche lui ha detto: non ho mai immaginato che potesse trovare una scusa per il gesto che ha fatto, non ho mai pensato che potesse tentare di trovare una giustificazione, sono sbalordito. Mentre Martina Gian Grande, la figlia, dice: io invece sono scioccata è davvero sconvolta e anche offesa. E arriva la classica domanda sul perdono e dice: non sono disposta a perdonare. Questa è la figlia di Gian Grande, che poi aggiunge: inquietanti le sue parole, vorrei sapere chi sono quelli che avrebbero solidarizzato con lui. Perché Gian Grande racconta nell'intervista, Preiti ha detto anche questo. Vabbè, prima della pubblicità vi racconto anche quella che ha fatto Raffaele Sollecito, o meglio due vicende giudiziarie, quella di Raffaele Sollecito, ma guardate, io ieri su Twitter ho scritto questo, non ho neanche la forza di commentarla. Si è laureato, è diventato ingegnere, si era già laureato per la verità in carcere, raccontano, però evidentemente gli mancava la tesi di laurea a Verona, una tesi su se stesso. Ora, per la verità, lui dice, non è una tesi su me stesso, è una tesi sulla semantica del mio nome e cognome, come viene percepita sul web. E attenzione, dice anche questa cosa clamorosa nella serie: se mettete la semantica del mio nome e cognome su internet, trovate il doppio di articoli associati alla parola innocente rispetto a quelli associati alla parola colpevole. Ma chi se ne frega? Ma cosa vorrebbe dire? Che quindi è innocente? Secondo le sentenze, ovviamente ci aspetteremo la sentenza definitiva, c'è la Cassazione, credo siamo in appello. Siamo alla condanna per l'omicidio di Meredith Kerch. Comunque anche il Corriere della Sera scrive una laurea inopportuna su se stesso. Sollecito si laurea con una tesi sui social network e il caso Meredith. Anche Libero, Sollecito si laurea su se stesso. Ossessione o grido di libertà? La pone così Libero. Invece, per sempre per stare a Libero, il vero grido di rabbia lo fa Mohammed Fikri. Ricordate colui che è diventato per alcuni giorni l'assassino certo di Yara Gambirasio, tirato giù da un traghetto che andava a Tanger incappucciato. Racconta lui: non vedevo niente, terrorizzato per una intercettazione interpretata in maniera totalmente errata, traducendola dall'arabo. Accusato per errore del delitto, Yara poi si è trasferito a Treviso. Ora dice: devo andare via da Treviso, nessuno mi dà un lavoro, devo andare a Piacenza dove ci sono dei miei conoscenti, ma persino in Marocco non posso tornare, le informazioni sul mio conto arrivano in modo frammentato anche lì. Quando hanno arrestato Bossetti poche settimane fa, credevano anche in Marocco i giornali che io fossi ancora in carcere. Non hanno capito, insomma, che sono stato riconosciuto totalmente estraneo ai fatti. Mi hanno tolto tutto: l'onore, il lavoro, gli amici. Fatia, la donna che dovevo sposare ma che, distrutta da questa storia, mi ha lasciato. Lo scorso mese, racconta Alessandro Dell'Orto su Libero, le ho provate tutte ma non sono riuscito a rinnovare nemmeno il permesso di soggiorno e quindi ho perso anche al lavoro. Avevo trovato un impiego ma l'ho già perso a causa del mancato rinnovo del permesso. Ora dice: datemi almeno un risarcimento, ma fa sapere Libero può avere, per i calcoli italiani, al limite 10.000 euro di danni. Mohammed Fikri che dice: mia vita distrutta dopo questa vicenda. Andiamo in pubblicità e poi ripartiamo dalle notizie politiche, a cominciare dall'Europa, ma poi anche le riforme. I leader, soprattutto Berlusconi e Renzi, serrano i ranghi in vista del voto finale. Chi non ci sta è fuori dai partiti, ma sarà davvero così? Alessandro Milan. Ma no, forse è meglio Alessandro Juve. Agghiacciante, agghiacciante questa cosa. Vabbè, vabbè. Eccoci qua, cari amici della Juve, arriva Massimiliano Allegri. State allegri, dai, dai, dai. Lo schema Allegri forse alla Juve. Allora, torniamo alle questioni europee con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che ha promesso 300 miliardi per il rilancio, il ritorno a un metodo comunitario, ha chiesto una commissione che sia più politica, molto politica, ha ottenuto 422 sì. I no sono stati 250, astensione, voti nulli 57, è diventato il nuovo presidente della Commissione europea. È stato fischiato dai deputati inglesi, come racconta Beda Romano sul Sole 24 Ore, pagina 3, quando ha affermato che l'euro protegge l'Europa contro il disordine monetario. Insomma, inizia l'era Juncker. Primo problema: chi mettere a capo della Alto Commissariato per la Politica Estera Europea, insomma il Ministro degli Esteri dell'Unione Europea, impropriamente detto. L'Italia dice: spetta a noi quel ruolo, e c'è una candidata sulla quale Renzi punta moltissimo, che è il nostro Ministro degli Esteri, Federica Mogherini. Il problema è che i paesi baltici sono contro la Mogherini, è troppo filo russa. Poi ci sono altri paesi che dicono è troppo poco esperta. E allora la situazione, il retroscena più interessante su questo è di Alberto D'Argenio, a pagina 1, 2 e 3 di Repubblica. Renzi ha pronto il piano B. Angela, se Federica Mogherini è troppo giovane, sappi che per me l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione è Massimo D'Alema. Così, in un pomeriggio di fuoco a Palazzo Chigi, linee telefoniche letteralmente roventi, dopo che un fronte di 11 paesi, prevalentemente dell'est, si è coagulato contro la candidatura di la Mogherini, Matteo Renzi chiama Angela Merkel, Herman Van Rompuy, François Hollande. Con questa linea l'accordo è che alla famiglia socialista spetta l'alto rappresentante. All'interno della famiglia socialista sarà l'Italia ad avere la prima scelta. La nostra scelta è Federica Mogherini, ma Renzi capisce in questi colloqui che la Mogherini è troppo poco esperta per molti, che la Mogherini probabilmente temo non passerà, dice ai suoi a un certo punto. E allora ecco la seconda mossa. Se non c'è Federica Mogherini, per me ci sono o la Mogherini o Massimo D'Alema. Eccolo il titolo del retroscena: se salta Federica, noi candidiamo D'Alema. Questo su Repubblica, il retroscena legato a Federica Mogherini. Staremo a vedere oggi. Intanto si muove sempre passino passetto. Ieri l'ho chiamato il tango: un passo avanti, un passo indietro, un passo di lato. Potremmo mettere anche una mano alla cabeça, una mano alla cintura. Insomma, questo è il movimento delle riforme lentopede al Senato. Ci sono 7.500 emendamenti presentati contro la riforma, cioè contro, per modificare la riforma del Senato. 7.500, in buona parte sono di SEL, un migliaio tra Gale e Forza Italia, 60 solo dal PD. Il ministro per le riforme, Maria Elena Boschi, fa un'intervista ad Avvenire, intervistata da Arturo Celletti. Dice: chiudiamo col nuovo Senato, poi tocca al presidenzialismo. Dice le solite frasi ottimistiche. Intanto accusa chi fa troppi emendamenti: presentarli solo per fare ostruzionismo non è serio verso i cittadini. E affronta il tema che in realtà sotto traccia è affrontato da tutti, e cioè l'eventuale condanna domani in appello al processo Rubbia Berlusconi può far saltare il patto del Nazareno. Risponde Maria Elena Boschi: Forza Italia dice con chiarezza che le riforme vanno avanti comunque, e Forza Italia fino ad oggi ha rispettato gli impegni. Va dato atto a Berlusconi che sulle riforme è stato un alleato responsabile. Tra l'altro, ieri Berlusconi ha fatto questa riunione tesissima, a sentire dai racconti. Berlusconi si appella al cuore, poi il pugno duro e lo scontro coi dissidenti. Questo è il titolo, per esempio, del Corriere della Sera, pagina 6, con Paola Di Caro. La linea del partito è questa: in 20 anni non ho mai tradito la vostra fiducia, credetemi, bisogna fare questa riforma. A un certo punto ha detto anche: e chiudo qui il dibattito, anzi non voglio un dibattito. A quel punto pare si sia alzato Daniele Capezzone a dire: ma come tu dopo 20 anni mi critichi? E poi pare che abbia detto a Capezzone: ma vai dove vuoi. A un certo punto il senatore Vincenzo D'Anna, cosentiniano del gruppo GAL, vuole prendere la parola, e qui si arriva al vaffanculo di Berlusconi: ma vattene con Alfano che già ci stai, pare, secondo i resoconti. Per la verità, ieri il senatore D'Anna alla Zanzara ha smentito, dicendo: ma no, Berlusconi non ha mai usato male parole. Ma tutti i testimoni raccontano di questo, e pare che Berlusconi poi abbia incontrato Minzolini dicendogli: anche tu smettila di opporti, se no ti mando via. E Minzolini, perché Berlusconi gli ha detto: sono in politica da 20 anni, vuoi non fidarti di me? E Minzolini pare gli abbia risposto: io scrivo di politica da 35 anni, presidente. Tra l'altro Augusto Minzolini sarà alle 8.45 il nostro ospite, vedremo un po' di capire come è andata questa vicenda. Ci saranno dunque i ranghi da serrare, Renzi ha detto ai suoi in una riunione, in un'assemblea ieri in streaming: non chiedo il voto per una simpatia nei miei confronti, ma per una lealtà verso gli elettori e per una lealtà verso il Partito Democratico. Insomma, ha capito che se la butta sulla simpatia da parte di alcuni dei parlamentari perde nettamente, e quindi la punta sulla lealtà. Comunque la situazione è questa: un Berlusconi e un Renzi che cercano di serrare i ranghi per questa riforma, mentre il Fatto Quotidiano critica moltissimo la vicenda Denis Verdini-Renzi, il rapporto tra i due. Verdini ieri è stato rinviato a giudizio, ed eccolo il titolo del Fatto Quotidiano: Verdini, lo scandalo di Renzi. L'ex coordinatore di Forza Italia, processo per bancarotta, associazione a delinquere, ha fatto arrivare pochi giorni fa un dossier a Palazzo Chigi finito sulla scrivania del Premier con le ipotesi di riforma del Senato e di legge elettorale. Insomma, il Fatto scrive con Fabrizio D'Esposito a pagina 3: Renzi tratta e apre le porte a Palazzo Chigi, porte praticamente aperte quotidianamente, con Verdini che ha pressoché libero accesso a Palazzo Chigi, incontra o Renzi o il suo sottosegretario alla presidenza del Consiglio che si occupa di fondi per l'editoria, vale a dire Luca Lotti, una cosa che scandalizza il Fatto Quotidiano. Ce n'è anche per Beppe Grillo, ma lo vedremo tra poco. Intanto voglio salutare Mauro Meazza, buongiorno Mauro. Buongiorno, ma addirittura anteposto a Beppe Grillo, sono lusingato di questa considerazione. Ubi Meazza, no. Grillo, cessa. Adesso no, non esageriamo, che poi non vorrei finire negli strali. Vuoi dire qualcosa contro il Movimento 5 Stelle? Lo twitto subito, passi una giornata fantastica. Sì, una giornata sulla graticola, no? Ti ringrazio. Ne ho sufficienza così. No, ti volevo invece dire che è un po' di tempo che non usiamo questa formula, ma per il nostro qui Radio Fisco abbiamo il TFR. Abbiamo il coefficiente del TFR. Chi doveva capire ha capito. Bravissimo, questo è il senso del nostro messaggio. Voi che resistete nelle secche della burocrazia del fisco, avete capito? Abbiamo il TFR, lo trovate nelle pagine di Norme e Tributi. Peraltro, nella coppia di pagine dove da una parte campeggia una tua bella foto, caro Alessandro, che sì. Sai, ma c'è un book di foto sul Sole 24 Ore. Ma penso che tu possa mandare una raccolta a questo punto, e però nella pagina accanto, quella dove abbiamo il TFR, c'è anche una precisazione che riguarda tutti coloro che fanno il 730, che sono diversi milioni, perché è un po' cambiata la regola per compensare debiti e crediti con il fisco. Insomma, il risultato è che in alcuni casi qualcuno potrebbe ritrovarsi una busta paga di luglio un pochino più magra per una questione appunto di calcolo dei debiti e dei crediti nei confronti del fisco che è stata modificata. Non voglio altro, non ti vo dir, come diceva il poeta, però sta tutto su Norme e Tributi. E poi dobbiamo mangiare più frutta, Alessandro. Il prezzo della frutta. Io sono abbastanza a posto da quel fronte. Ecco, no, perché ti volevo dire che là dove riferiamo dell'inflazione, che ohimè è cresciuta pochissimo, 0,3, riferiamo anche che i prezzi del consumo della frutta sono calati del 12%, e ne consumiamo troppo poca, insomma c'è una evidente difficoltà di crisi dei consumi, non è che l'abbiamo scoperto questa mattina, naturalmente ce ne eravamo già un po' accorti tutti quanti da qualche anno, però questo è un ulteriore segnale. E ieri ti parlavo della banca dei BRICS, ti ricordi? Allora hanno fatto a Fortaleza, si sono visti a Fortaleza, città che anche noi italiani abbiamo imparato a conoscere in occasione dei mondiali, e si sono messi d'accordo, ci partirà nel 2016, sede a Shanghai, e fondi per sostenere gli investimenti appunto nei paesi cosiddetti BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina e anche il Sudafrica. È un fatto molto importante dal punto di vista macroeconomico, quindi lo segnalo, ne parliamo diffusamente oggi sul Sole 24 Ore. Ottimo. E poi vabbè, torniamo invece sulle questioni fiscali in ultimo, sai, in cauda venenum dicevano i latini, si aspetta, gli operatori, le banche aspettano una proroga del 770 che andrebbe completato entro la fine di luglio, ma si spera che si arrivi a settembre, perché indovina un po', sono cambiate le regole in corsa e non si capisce niente anche quest'anno, quindi tutto è arrivato tardi, software e quant'altro, e così è, come dire, ci si ritrova sempre con il fiato un po' corto. Scopriremo nelle prossime puntate questo. Lo scopriremo solo vivendo, per fare una terza citazione, naturalmente la più dotta. Va bene, siamo arrivati. Siamo alla frutta. A proposito. Siamo alla frutta, mangiamo più frutta. Guardate i prezzi, questo calo dei prezzi effettivamente anche per la salute, da un certo punto di vista, potrebbe essere un problema. Vabbè, allora niente, me ne vado. Traffico. Alino Milan, il Peppa Pig dell'informazione. Oh, che affetto, caro piccolo ascoltatore. Intanto Grillo ieri è comparso al Senato, ha fatto uno dei suoi soliti show anche contro i giornalisti, ha pranzato alla buvette del Senato e quindi critiche per il fatto che abbia pranzato nel ristorante della casta, ha fatto sapere di aver pagato 10 euro, il Corriere della Sera fa sapere che in realtà le ha pagate per lui Rocco Casalino, insomma se è genovese lo sia fino in fondo, caro Beppe Grillo, e poi ha detto questa frase: io sono stanco, questo racconta Tommaso Ciriaco su Repubblica, sono stanco, ha detto ai suoi, Gian Roberto Casaleggio si trasferirà a Roma, come dirà a seguire. Poi in realtà è arrivata una smentita, c'è l'Unità che ha messo in pagina quello che è il colloquio, questi colloqui sempre con persone che inseguono Beppe Grillo, 30-40, un capannello di giornalisti che si affollano attorno a lui e lui che cerca di dire ma cosa volete da me, ma siete falliti, perderete il lavoro, solite cose. Comunque l'Unità ha messo questa che in intervista, in realtà sono impropriamente un'intervista, non è un face to face, ma Natalia Lombardo mette a pagina 4 quelle che sono le dichiarazioni che ho letto un po' dappertutto. Io non ho problemi, siete voi che seguite un ex comico. È possibile che esista la stampa parlamentare, possa andare ovunque, mica ci sono gli elettricisti o gli idraulici parlamentari. E come no, ci sono, gli fanno notare. Ah sì, ma loro non mi inseguono. Perché voi giornalisti dovreste avere degli spazi dove stare, una stanzetta dove uno viene e vi parla? Se ho qualcosa da dirvi, vi chiamo io. Ma se lei non ci parla, come possiamo fare informazione? Chiede qualcuno, l'Unità. Ma qui ci stiamo giocando la democrazia, siamo a un bivio, la gente non sa niente di queste riforme, siamo al 49esimo posto per la libertà di informazione. Siete voi che non vi ribellate, dice Grillo ai giornalisti, non strappate il foglio dove leggere le notizie in TV, scrivete le vostre 10 righe e qualcuno poi fa un titolo falso. Io facevo ridere la gente, poi ho smesso, deciso di fare informazione così, tanto tra un po' perderete tutti il lavoro. E ancora Grillo dice: non sono contento, ma potrò dire che non voglio pagare con i miei soldi i vostri giornali, pagare le tasse per un'informazione che danneggia il paese, non vi voglio più finanziare, se vendete copie ci state, altrimenti chiudete bottega. Questo Beppe Grillo ieri al Senato. A proposito di tasse, visto che la citate Beppe Grillo, c'è un interessantissimo articolo di Claudio Cerasa sul Foglio, in prima pagina sul Foglio, è un'analisi del rapporto tra Matteo Renzi e le tasse, o meglio il governo Renzi e le tasse. Rottamatore o tassatore, il fisco di Renzi tra piani e realtà. Tasse e governo Renzi, dov'è la verità? Questo è il punto di partenza per Claudio Cerasa. Si parte dagli 80 euro. Il presidente del Consiglio sa bene che la rivoluzione degli 80 euro potrà considerarsi tale, ovvero una rivoluzione, solo a condizione che nella prossima legge di stabilità i 10 miliardi necessari per coprire il bonus previsto per il 2015 non verranno trovati spizzicando qua e là tra una mezza privatizzazione e qualche soldo guadagnato grazie al miglior rendimento ottenuto sui titoli di Stato. Ciò che occorre è una misura strutturale che possa dare continuità al bonus, e l'unica misura possibile e non transitoria è quella che si nasconde all'interno del pacchetto sulla spending review. A questo proposito, il piano Cottarelli, fantomatico, aggiungo io, dovrebbe essere presentato nella sua interezza, e a quanto risulta al Foglio sono 3 i capitoli sui quali il governo ha intenzione di intervenire. Le ferrovie, per il quale nel 2014 lo Stato ha stanziato 4 miliardi, le municipalizzate e la revisione dei dossier relativi all'acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione. Poi però si analizza anche la questione delle tasse. Alcune tasse sono state introdotte dal governo Renzi, fa sapere Cerasa sul Foglio, ma dal punto di vista formale quasi tutte le nuove tasse previste sono state ideate per creare un gettito utile a ridurre altre tasse. È l'esempio, per esempio, della tassazione sulle rendite finanziarie. Per quanto sia una tassa discutibile da molti punti di vista, la tassazione sulle rendite finanziarie è stata messa in campo per ridurre un'altra tassa, ovvero l'IRAP. Insomma, per dire, non è che Renzi non abbia fatto nulla, ma le promesse sono ambiziose, e il rottamatore, per non diventare un tassatore, dovrà essere abile a fare i conti con la dura realtà. Cioè, poi Claudio Cerasa racconta l'ultimo capitolo, una nuova sfida, una promessa fatta da Renzi al mondo degli industriali che riguarda 32 miliardi, una promessa che suona così. se mi consentiranno di andare avanti, governare, fare i tagli alla spesa pubblica che intendo fare, tagli che dovrebbero essere equivalenti a 17 miliardi nel 2015 e 32 nel 2016, mi impegno a investire 2 punti di PIL per portare il cuneo fiscale al livello dei grandi paesi europei. Ecco, questa è la politica fiscale di Renzi, scrive dunque Il Foglio con Claudio Cerasa. In conclusione, è ingeneroso dire che quindi non abbia fatto nulla e non sia concentrato su questo dossier. Queste sono le prossime mosse. Veniamo alla cronaca. Ricordate il caso del professore di Saluzzo accusato di avere violentato 2 studentesse? Come è finita la vicenda? Ha patteggiato Walter Giordano. Interdizione perpetua all'insegnamento, dunque non potrà più insegnare. Pena 2 anni di carcere che sconta in una comunità. Oppure in carcere, questo poi bisognerà decidere. Ha patteggiato 2 anni di reclusione per violenza sessuale su 2 allieve minorenni. C'è da dire che anche gli avvocati difensori delle 2 ragazze dicono è stata una scelta del patteggiamento condivisa dalle parti offese, perché così si è evitato di essere risentite come testimoni in dibattito, perché ciò significava, come potete immaginare, dover ripercorrere il vissuto doloroso che le ha traumatizzate. 2 anni e mai più a scuola. Condannato il prof che violentò 2 studentesse, questo è il titolo della Stampa a pagina 17. Mi sembra una pena molto lieve, ma non voglio né fare polemiche né addentrarmi in vicende giudiziarie che non mi competono. A proposito di sesso, però, di altro tipo, c'è un'indagine sul giornale Enza Cusmai che riguarda tutti i nostri figli, ragazzi, ragazze. È finito il tempo delle mele, il sesso è sempre più precoce. Questo a pagina 19 del giornale. Si abbassa l'età della prima volta. Ormai un 14enne su 5 ha già avuto il primo rapporto sessuale tra le ragazze. E i coetanei maschi, invece, però, sono soprattutto pronti e molto maledettamente precoci, scrive il giornale, su 2 altre questioni. Il fumo e bere alcolici. A 13 anni per molti di loro queste pratiche sono già utilizzate. Fumare e bere. Vabbè, lo trovate sul giornale. Juve shock! Agghiacciante. Conte addio. Ma che ha combinato Antonio Conte? Io lo volevo al Milan da mesi. Mi sa che hanno fatto un contratto di 1 anno per farlo togliere poi al Milan. Farabutti. Juve shock, Conte addio è il titolo della Gazzetta, è tutto agghiacciante, pare che arrivi Massimiliano Allegri. Dai, dai alla Juve, mentre vince il premio La Carta Costa in 10 secondi Giuseppe Genna, scrittore che oggi scrive per il Corriere della Sera una pagina sul tema importantissimo, il campanile che divide un paese. Succede a Santo Stefano Lodigiano, 1900 abitanti contro i rintocchi alle 6:30 del mattino, per me già giorno inoltrato, Corriere della Sera, maledetti, maledetti, La Carta Costa.